Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 15 marzo, Bologna e dintorni vi dà il benvenuto alla puntata numero 22. Io sono Alessandro Albana e oggi, circa 10 giorni dopo l'annuncio roboante di un gigantesco e ambizioso piano di finanziamento per il riarmo dell'Unione Europea, annunciato proprio dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, non potevamo che occuparci delle ragioni, delle possibili implicazioni di questo piano in un panorama di guerra globale che ormai si dipana in maniera piuttosto evidente davanti ai nostri occhi. L'annuncio della Presidente von der Leyen è giunto a poche ore dall'incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Le immagini di quell'incontro sono note ai più e hanno fatto il giro del mondo. Insomma, è lecito credere che gli europei si siano sentiti abbandonati dopo quell'incontro e che come reazione abbiano elaborato un piano per prepararsi in maniera più consistente e concreta a possibili scenari di guerra. Naturalmente l'avversario, l'oppositore, il nemico che viene nominato a bassa voce è la Russia. Il piano dell'Unione Europea, su cui si è espresso positivamente anche il Parlamento europeo alla metà di questa settimana, prevederebbe una spesa di circa 800 miliardi di euro in diverse fasi, destinata proprio al potenziamento degli apparati di sicurezza e quindi incanalata sostanzialmente unicamente verso spese militari. Queste spese saranno affrontate prevalentemente con la creazione di nuovo debito pubblico da parte degli Stati. La grande novità in tema di disciplina finanziaria è che l'Unione Europea, la Commissione Europea, ha annunciato di poter e voler concedere una deroga ai tradizionali vincoli del patto di stabilità, dell'austerità e della spesa pubblica. Quindi queste spese potranno essere affrontate dai Paesi membri con un aiuto da parte delle istituzioni finanziarie della Banca Centrale Europea e della Banca degli Investimenti per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 150 miliardi di euro. Gli altri 600 e oltre miliardi possono essere sostenuti da parte dei Paesi membri derogando fondamentalmente ai principi, ai vincoli dell'austerità finanziaria. Insomma, rileviamo che per le spese militari questa deroga è stata prontamente riconosciuta. Peggio è andata ad altri capitoli di spesa che riguardano i servizi essenziali e quello che resta dello Stato sociale in Europa. Quindi si potenzierà la difesa dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri creando nuovo debito, ma su questo l'Unione Europea chiuderà un occhio. Intanto rimangono molto critici anche rilievi rispetto alla destabilizzazione o al contributo all'instabilità che un piano di riarmo potrebbe creare. Insomma, è spesso in questo modo che iniziano le corse agli armamenti che coinvolgono più attori o più paesi del globo, le cui relazioni reciproche non sono delle più serene. C'è quindi un tema economico, c'è poi un tema naturalmente legato alla sicurezza e alla pace, o meglio alla guerra. Intanto però i grossi produttori di armi, le grosse aziende produttrici di armamenti in Europa cominciano a festeggiare. La Reuters riporta che recentemente, proprio questa settimana, il colosso degli armamenti tedesco Rheinmetall avrebbe superato addirittura Volkswagen in termini di volume di affari e di valore azionario. Altre stime riferiscono che il valore in borsa di Rheinmetall è addirittura raddoppiato nel 2025 rispetto all'anno precedente. Insomma, la guerra ha un costo, ma per molti è anche un lauto affare. Come peraltro possiamo testimoniare anche con il crescente volume di affari e il crescente peso finanziario di un altro grande produttore di armi, questa volta italiano, che è Leonardo. Le implicazioni politiche, infine, a cominciare dalla politica nazionale, le vicende legate all'approvazione della risoluzione a sostegno di Rearm Europe al Parlamento europeo hanno visto spaccarsi i parlamentari europei del PD presenti in aula, quindi è in corso una discussione, è un vero e proprio confronto anche piuttosto acceso tra le fedelissime e fedelissimi di Elish Line, contrari all'approvazione di Rearm Europe, e i gruppi legati invece a Bonaccini, il quale ha votato assieme ad altri parlamentari europei del PD il piano di riarmo annunciato da von der Leyen. Insomma, quanto accade nel PD la dice piuttosto lunga rispetto alle implicazioni politiche anche ai livelli nazionali del piano di riarmo europeo. Un ultimo elemento ha a che fare con le reali motivazioni e le ragioni che stanno dietro al lancio di un piano così ambizioso e impegnativo dal punto di vista economico, su cui cercheremo di capire di più con il nostro ospite di oggi. Prima però una breve pausa musicale. Dead and Friends, questi erano i Damn Crooked Vultures. Bentornate e bentornati a Bologna e dintorni. Dunque, è di alcuni giorni fa ormai l'annuncio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di un ambizioso piano di spesa a fini militari per l'Europa. Il piano Rearm Europe, viene da dire che nel nome sta tutto il senso delle intenzioni che sostengono, che reggono questo programma. Dicevamo, il piano è stato poi votato dal Parlamento europeo, che lo ha appoggiato, approvato alla metà di questa settimana con una risoluzione. Ma per provare a comprendere meglio che cosa è previsto in questo programma e che futuro si traccia per l'Unione europea e quindi anche per noi, abbiamo in collegamento Alessandro Volpi, professore di storia contemporanea all'Università di Pisa, saggista e autore, tra l'altro, di I padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia, pubblicato dalla Terza nel 2024. Buongiorno Alessandro e grazie per essere con noi in collegamento quest'oggi. Salve. Dunque Alessandro, dicevamo, sono passati 10 giorni dall'annuncio del programma Rearm Europe, da parte della Presidente della Commissione europea von der Leyen. Il piano si è già guadagnato contestazioni ampie e diffuse e porta con sé una serie di contraddizioni e dimensioni critiche non indifferenti. Anzitutto la questione dei finanziamenti, dove e come si troveranno i soldi, si parla di 800 miliardi di euro all'interno dell'Unione Europea, nell'Unione che ha fatto del pareggio di bilancio e delle cure al debito pubblico a base di austerità i suoi mantra. Direi che almeno nella versione originaria del piano, così come è circolata e come è stata presentata, questi 800 miliardi sono per 650 miliardi interamente a carico degli stati che dovrebbero quindi aumentare il proprio volume di debito per finanziare questa spesa a riarmo. L'unica, diciamo, eccezione che l'Europa fa è quella di applicare l'articolo 122 del testo di funzionamento della Unione Europea, che prevede che in circostanze emergenziali di assoluto rilievo questi, e questa viene considerata, a mio modo di vedere, in maniera abbastanza singolare, una causa di assoluto rilievo, di assoluta emergenza, è possibile non conteggiare nell'ambito dei vincoli di bilancio europei questi 650 miliardi, che vuol dire poco, cioè vuol dire in altre parole che gli stati devono indebitarsi, quindi aumentare il proprio volume di debito, devono trovare dei compratori con tassi di interesse che remunerano i compratori e quindi a crescere anche qui dal punto di vista degli interessi il proprio volume di debito, e questo incremento non viene conteggiato ai fini del patto di stabilità. Unica eccezione rispetto a qualsiasi altro tipo di spesa. Ora è abbastanza evidente che questo rappresenta una priorità significativa. A questi 650 miliardi ne vengono aggiunti altri 150 che sono sempre contratti dagli stati, ma con delle garanzie europee. Così si arriva ai famosi 800 miliardi. Ora, il dato che mi sembra più rilevante in assoluto, 800 miliardi spalmati sui vari paesi europei e in alcuni casi, come nel caso italiano, con debiti significativi. L'Italia ha un debito intorno a 3.000 miliardi e finanzia le proprie leggi di bilancio, non l'ultima, per il 40% con l'emissione di debito. Beh, dover contrarre ulteriore debito per quanto non conteggiato nel patto di stabilità significa certamente dover distogliere risorse che sono destinate ad altre forme di finanziamento della spesa pubblica con il debito. Penso alla sanità, penso all'istruzione, penso alla previdenza pensionistica, e destinarle agli armamenti, perché appunto in quel modo si tratta di un debito che non è conteggiato in termini di vincoli, ma è comunque un debito che va appunto contratto. E quindi chi paga questi 800 miliardi? La risposta è semplice: non certamente l'Europa, li pagano i singoli stati aumentando il proprio debito, avendo la benevolenza della Commissione, per cui la quota parte del debito contratto da un paese che va in direzione delle armi non viola i vincoli del patto. Quindi si dà una chiara priorità alle spese militari e si riduce sensibilmente la capacità dei paesi di varare politiche che siano politiche appunto di contenimento della povertà, di finanziamento della sanità e di quelli che sono i servizi universalistici. Quindi, da questo punto di vista, l'emergenza gridata di una guerra che sembra già esplosa è la giustificazione per sacrificare a questa urgenza del riarmo le spese dello Stato sociale, e quindi, in altre parole, vuol dire smantellare lo Stato sociale e sostituirlo in larga misura con un sistema privatistico, che è l'altro elemento di coesione, cioè che lega il Rearm Europe: da un lato finanziare la spesa militare e dall'altro indebolire marcatamente lo Stato sociale, in maniera tale che le privatizzazioni e le pensioni private, la sanità privata abbiano uno spazio sempre più crescente. Ecco, sì, infatti la formula proposta sembra piuttosto semplice, spendere di più per potenziare, come dicevamo, la difesa europea, però pare di poter dire che spendere non basta. Nessun paese nell'Unione Europea oggi possiede un'infrastruttura di produzione di armamenti capace di sostenere il fabbisogno, così come è delineato nel programma ReArm. La soluzione più plausibile sarebbe quindi quella di rivolgersi agli Stati Uniti per acquistare le armi di cui dovremmo avere bisogno. Aumenta quindi la spesa pubblica dei paesi europei per la difesa contestualmente alle commesse dei grossi produttori statunitensi. In questo mi pare di rivedere esattamente quanto Trump aveva chiesto prima e dopo il suo insediamento alla Casa Bianca rispetto ai partner europei. Sì, io penso che qui ci sia, come si può dire, un tema centrale, cioè è abbastanza evidente che se uno analizza il piano di riarmo su un orizzonte che è un orizzonte sia temporale che oggettivo di concreta efficienza per difendere l'Europa da eventuali attacchi e le motivazioni di questo piano sono decisamente deboli, cioè molto complicato che questo piano possa mettere l'Europa in condizioni diverse da quelle che è già. L'Europa spende complessivamente, se mettiamo dentro anche l'Inghilterra, 450 miliardi di euro l'anno per la spesa del riarmo, quindi non è che sia sprovvista di questa spesa, semmai è un problema di coordinamento, di utilizzo, di efficienza. Ma l'obiettivo di Rearm Europe, a mio modo di vedere, è un altro. L'obiettivo di Rearm Europe è certamente quello di alimentare una nuova bolla finanziaria, perché poi il tema è questo, come del resto sta accadendo nei listini europei, nei listini americani, cioè nel momento in cui la Commissione europea, il Consiglio europeo definiscono un impegno complessivo di 800 miliardi di euro da destinare a riarmo, vuol dire che le società che producono armamenti immediatamente, non nel momento in cui metteranno a produzione, avranno le commesse e quindi con i tempi anche tecnici delle decisioni che in qualche modo non saranno brevissimi, ma immediatamente diventano dei titoli assolutamente appetibili. Rheinmetall, il titolo tedesco, ha avuto una vera e propria esplosione, lo stesso sta accadendo con Leonardo. Per altri versi, questo elemento trascinerà anche titoli come Boeing e Raytheon, cioè delle società produttrici di armi americane, perché come giustamente dicevi tu, è evidente che una parte degli acquisti avverrà sicuramente la prima tranche dovrà venire da produttori che sono già attrezzati, ma il dato vero è che annunciare con forza un piano di 800 miliardi di euro destinati al riarmo, a cui si aggiunge una politica della Banca Centrale che ha già dichiarato di ridurre il tasso dei depositi per incentivare le banche a finanziare il riarmo, a cui si aggiunge dichiarazioni di Letta e dello stesso ministro Giorgetti per cui anche il risparmio privato deve andare in quella direzione. Beh, questo vuol dire creare le premesse di una grande bolla finanziaria, come sta avvenendo. I titoli delle società che producono armi, che sono peraltro nelle mani dei grandi fondi BlackRock, Vanguard, State Street, hanno e stanno registrando un'immediata lievitazione, che è l'obiettivo, secondo me, primario di questo piano, prima ancora della ipotetica difficilissima riconversione industriale di Stellantis in una produzione di car armati o di Rheinmetall, lo smantellamento di quei settori che sono ancora legati al civile per farli militare. Qui c'è la necessità di una bolla e questo nasce, a mio modo di vedere, e qui secondo me il tema di Trump forse è un po' diverso, e qui nasce dal fatto che Trump sta terremotando il mercato finanziario degli Stati Uniti, lo Standard & Poor's, il Nasdaq, il Dow Jones stanno crollando, stanno perdendo quotidianamente valore, hanno subito sedute particolarmente dure. Il settore delle big tech, Nvidia, Google, Apple, Tesla, stanno perdendo di valore in maniera significativa e questo rischia di creare una vera e propria crisi finanziaria che travolgerebbe quella bolla in essere di cui beneficiano ovviamente i grandi fondi che gestiscono il risparmio e anche la miriade di risparmiatori legati a quei fondi. Allora bisogna creare un'altra bolla e la bolla questa volta parte dall'Europa ed è la bolla del riarmo. Io non vedo altra giustificazione. Nessun essere razionale può veramente essere convinto che domani i russi attaccheranno Parigi o che ci siano le condizioni per dire noi subordiniamo ogni tipo di spesa pubblica alla spesa al riarmo. Non ci sono le condizioni oggettive né in termini geopolitici né in termini di capacità produttiva, come si diceva, di mettere a frutto questa enorme somma. Questa enorme somma è una enorme, appunto, mobilitazione di liquidità in direzione, prima di tutto, delle società che sono afferenti al mondo degli armamenti, società europee, società americane su cui costruire una bolla, su cui indirizzare il risparmio e quindi mantenere in vita un capitalismo finanziario che altrimenti le posizioni molto irruente, molto destabilizzanti di Trump, il contrasto fra Trump e la finanza di Peter Thiel, di Scott Bessent, dei suoi ministri e lo scontro con appunto i grandi colossi, le Big Three, rischia di far saltare per aria. Cioè di fronte alla crisi di un capitalismo finanziario che si è consolidato e che rischia di crollare proprio per l'ortodossia, per diciamo l'eterodossia, per il carattere eterodosso di Trump rispetto all'ortodossia dei democratici con i grandi fondi e le grandi banche, per far fronte a questa situazione ci vuole una nuova bolla e la nuova bolla passa attraverso il riarmo. Il riarmo è molto veloce, facilmente identificabile con una narrazione retorica che ha mobilitato tutte le intelligenze liberal conservatrici e quindi il mercato finanziario con il riarmo può sopravvivere a una crisi che altrimenti rischia di travolgerlo. Resta il fatto che a giocare a fare la guerra, insomma, poi si rischia di farla davvero la guerra. Assolutamente sì, infatti questa è una delle bolle più rischiose e a mio modo di vedere è anche la testimonianza della crisi profonda del capitalismo finanziario, cioè il capitalismo finanziario in questo momento che si era imperniato su appunto le tecnologie, l'intelligenza artificiale, fa fatica a mantenere in vita quotazioni borsistiche per cui le azioni Apple valgono 3 volte il loro valore reale o quelle di Nvidia 5 volte il loro valore reale. Fanno fatica perché naturalmente esiste la concorrenza cinese che può dimostrare che quel tipo di prezzi finanziari sono troppo alti perché si può fare meglio a prezzi più bassi, perché esiste la volontà da parte di Trump di puntare sulle criptovalute che possono distogliere risorse da questa gigantesca bolla delle big tech. E allora, di fronte a questo, si fa ricorso a quello che è il settore drammaticamente più pericoloso, perché poi è chiaro che se noi indirizziamo i capitali e il mercato finanziario verso il riarmo, vuol dire che poi, prima o poi, queste armi vanno prodotte, vanno smaltite, vanno vendute proprio per evitare che la bolla si allunghi troppo rispetto all'economia reale e quindi c'è il rischio che poi questo determini veramente un'esplosione del conflitto. Io, per esempio, sono convinto che la politica di riarmo pensata in termini finanziari è pericolosissima per paesi come la Polonia o come i paesi baltici che nella politica di riarmo vedono una sorta di via libera a una possibile aggressione in direzione della Russia o, come dire, degli elementi di forte, sensibilizzazione in chiave bellicistica. Ecco, quindi questa scelta finanziaria di ricorrere al riarmo è un po' anche frutto della difficoltà estrema del capitalismo e quindi di fare appello a quello che è lo strumento per sua natura decisamente più rischioso e più pericoloso in termini reali, in termini oggettivi. Bene, diceva Mao, grande la confusione sotto il cielo, ci sembra di poter essere d'accordo. Dobbiamo smentirlo perché la situazione non è eccellente, però. Alessandro, io ti ringrazio molto per averci aiutato a fare chiarezza in questo quadro che non ha molto di bello da raccontarci, insomma, ci toccherà aspettare per capire in che direzione andrà l'Europa, in che direzione andranno anche le nostre vite. Grazie mille, Alessandro Volpi. Grazie a voi. Noi ci risentiamo come ogni settimana il prossimo sabato e l'emittente la conoscete già, è Radio Città Fucico.